Ciao, mi chiamo Luca, chiamo da Torino, 47 anni, lavoro in una scuola guida. E, perché mi piacerebbe fidanzarmi con Lara Comi? Ma perché politicamente la pensa come me, ma questo è irrilevante. Poi perché fondamentalmente è il tipo di donna che mi ha subito ispirato fin dalle prime volte che l'ho vista in televisione. Che dire? A lei adesso l'ultima parola.